Brasil. La nostalgia è tu Brasil. Brasil sta lì. L'Italia qui. Grande ammucchiata. Tutti convocati. Di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Siamo gli ottimisti. Ben ritrovati al consueto appuntamento di ottimismo contemporaneo obbligatorio. Non c'è niente di nuovo. All'inizio di tutte le manifestazioni in Italia c'è sempre il pessimismo. Yeah! Io dichiaro ufficialmente fondo il partito dell'ottimismo. Yeah! C'è troppo poco entusiasmo, porca vacca, secondo me andiamo là e vinciamo. Yeah! E quando mi è stato posto la domanda chi vince i mondiali, io ho detto l'Italia. Yeah! Dai, basta piangerti addosso, di qui e di là, vinciamo noi. Siamo gli ottimisti, ben ritrovati al consueto appuntamento di ottimismo contemporaneo obbligatorio. Yeah! Beh, mica male, eh? Pardo, hai sentito che Riccamino ha fatto Piantanina? Qualità del signor Piantanida. Manifesto del nostro partito. Scendiamo in campo. Qualcuno forse l'ha già detto. Siamo pronti a scendere in campo. Proprio lui! Abbiamo fondato il partito degli ottimisti, andiamo al mondiale con il sorriso sulle labbra, il cuore leggero e domani cantiamo pure perché abbiamo organizzato un concerto live qui, mentre Pardo sarà già in Brasile. No, ci sono, domani sono a Roma. Perdonami, io perdo. Domani sono ancora in Italia. Domani sera parto, mi perdo Brasile-Croazia. Ecco, che sarà. Praticamente io partirò in contemporanea col calcio d'inizio di Brasile-Croazia. Però poi da venerdì mattina sono operato. Metterò un braccialetto elettronico. Esatto, come i carcerati. Senti, qui con me c'è convocato per un giorno Alberto Raise. Buongiorno, ciao Alberto. Ciao Alberto. Ciao. Grazie di avermi qui. Tu sei balotelliano, immobiliano, che sei? Sono italiano, per l'Italia, tifo per l'Italia. Vabbè, ma sbilanciati però. Bilancio per il momento ancora Balotelli, secondo per me. Per il momento ancora Balotelli, poi vediamo come va. Ma ti iscrivi al nostro partito? Assolutamente sì. Partito degli ottimi. Ma dai, no, ma basta con il pessimismo. Facevo già parte prima della fondazione. Sì? Sì, bene. Sì, perché... Ma raccogliamo un sacco di consensi. Probabilmente ci voleva qualcuno, Pierluigi, che desse una scossa qui, perché se no si va avanti con le polemiche, nella miniera e nella grotta della sofferenza. Noi non ci vogliamo più stare. Oggi, infatti, io avrei quasi deciso di parlare di tutt'altro che rispetto ai mondiali, perché abbiamo un nuovo idolo che è Ernest Gulbis, giusto? Parlo. Sì. Sai cosa ha fatto? Sì. Hai visto? Semifinale Roland Garros, torna nella sua Lettonia e si fulmina via in una notte al casinò tutto il premio della semifinale, 412.000 euro. Che numero! Fischi per lui, pubblicità per noi, ma subito! Senti, adesso abbiamo il traffico, poi mi spieghi che succede stasera a Tiki Taka? Sì. Puntata speciale il mercoledì sera, ad un orario finalmente umano. 9:15, giusto? 9:20. Prima serata. Era ora. Poi mi dici chi c'è, mi dici tutto quanto. Aspettiamo un signore che conosce molto bene, tre che potrebbero giocare da subito. Verratti insegna Immobile. Facciamo tutto dopo il traffico, ma con voi, perché oggi voglio più che mai un sacco di adepti al partito dell'ottimismo. Convocati. Ecco che torniamo, tra l'altro altro idolo del giorno che stasera sarà Tiki Taka, credo, Claudio Gentile, l'avete trovato? No, infatti non si trova più, doveva andare a allenare Sion, non si è presentato, il presidente del Sion, Constantin, ha detto fino a quando non saprò l'origine vera del problema sarà difficile esprimere un'opinione, magari nel giro di 48 ore riceverà un certificato medico, forse Gentile è diventato improvvisamente geloso e non se la sente di lasciare la sua giovane moglie per venire a lavorare in Svizzera, o magari è una questione di ordine psicologico. La cosa migliore è comunque che il tecnico italiano si spieghi, perché ci sono degli aspetti aberranti nel suo comportamento. Aberranti. Io aborro gli aspetti aberranti. Ascolta, c'è un altro tema molto interessante di oggi, magari ne parlerai stasera, credo. Sì. C'è Cesari, sì. No, non c'è Cedera, mi stai dicendo tutti quelli che non ci sono. Stasera abbiamo 28 persone. Dimmi chi c'è, poi almeno lo so. Dimmi chi c'è. Ci sono, allora, ci sono. Me lo scrivo, prendo appunti. Mughini, L'Abate, Uriali, Oddo, Maldini esclusivo, Paolo. Melissa Satta, Costanza Caracciolo, Piero Chiambretti, Pucci, grande comico, che fa morire da ridere. I collegamenti con Manaus, Mangaratiba e San Paolo. Sì. Abbiamo due reportage esclusivi, uno dentro al movimento degli indignati, in pratica, Copa Prachi, no? Con delle immagini molto, molto violente, molto forti, ma insomma che raccontano il punto di vista, e un altro invece, diciamo, quello che ti dicevo ieri, appunto, siamo andati anche a approfondire questo tema del turismo sessuale, perché pare che siano addirittura dei corsi di lingua per le prostitute in Brasile, e siamo andati sempre con i nostri inviati un po' tipo Iene a fare un reportage anche su questo. Poi avremo tutto lo spazio gossip, ma ci sarà anche la parte tecnica, ovviamente. Avremo Michela Calcagno collegata da casa Insigne con i genitori di Insigne. Avremo un sacco di sorprese, non posso spiegare tutto. Ma sei stato assolutamente esauriente, Pier. Ecco, io lo guardo di sicuro. Alberto, allora, comincia alle 21:10 e si chiude alle 4:40 del mattino. 4:40 del mattino, certo, perché ci sono supplementari e rigori. Tutta quella gente, non li metti. Comunque, anche lì mi sembra un programma molto ottimista. No, ecco, io voglio dire questa cosa a tutti gli ascoltatori. Ecco, se ci volete un po' bene, stasera guardate, prima serata non si scherza, capito? Diventa una roba che ci sono. Ascolta, quelle cose di prima serata, tipo Sanremo, fantastico. Ecco, prima serata. Mi scrivono se le gemelle Kessler Kessler le abbiamo contattate, eventualmente più avanti, se ci sarà Italia-Germania, facciamo le Kessler. Senti una cosa, ti faccio una domanda: qual è quell'allenatore che l'anno scorso faceva giocare con la maglia azzurra precorrendo i tempi Verratti in segna Immobile? Il signor Mangia. Eccolo qua. Buongiorno. Mister, buongiorno. Buon pomeriggio a voi, buongiorno. Come stai? Bene, grazie. Dove sei? Bene. Adesso a Milano, sono stato via qualche giorno, adesso qualche giorno a Milano, poi andremo un po' al mare. Vuoi venire a Tiki-Taka stasera? No, stasera non ce la faccio, perché purtroppo questi 2-3 giorni a Milano sono... Vabbè, ci vedrai, però. Sistemare un po' di cose, dai. Ci vedrai. Sistemare un po' di cose. Ma ormai fai le convocazioni in diretta. Sì, sei meraviglioso, Pardo, sei meraviglioso. Senti, ma chi deve giocare, Immobile o Balotelli? Chiedete la Prandelli, a me lo chiedi. Non lo so. Io... Ma anche insieme, volendo. Quindi non Prandelli dice di no, mister. Prandelli dice di no. Dice, no, ha detto che è un po' forzata, ma non è impossibile. Ma io sono un po' di parte, ma io con Immobile ho fatto giocare qualsiasi tipo di attaccante, perché per me diventa abbastanza facile giocare insieme a lui. Ma scusa, ti dico quello che penso io, che chiaramente, come si sa, ci capisco pochissimo. Secondo me, con una punta sola è meglio Balotelli. Ma dipende sempre dalle caratteristiche. Adesso con due punte con Cassano, secondo me è meglio Immobile. Cioè, Cassano Immobile per me è una coppia da solo. Vedi, ad esempio, Cassano Balotelli all'Europeo avevano fatto benissimo insieme. Il discorso è che giocando con una punta sola dipende chi ci si mette vicino o intorno, perché dipende, ci vuole che qualcuno attacchi alla profondità. Balotelli ogni tanto gli piace farlo, ogni tanto meno. Questo è un aspetto che penso Cesare stia valutando, insomma, sicuramente. Sentimi, si è molto discusso sul ruolo di Verratti e sulla sua coesistenza con Pirlo. Sono state dette molte cose anche dallo stesso Prandelli, che ha giocato tutto l'anno nello stesso ruolo di Pirlo, doveva diversificare. Adesso, vuoi per esigenze nei forni di Montolivo eccetera, vuoi perché ci sei resi conto che è un modulo, quello dei cinque centrocampisti, che a me piace, che può funzionare, adesso Pirlo e Verratti, esiste questo problema di convivenza, di coesistenza? Ma Cesare ha sempre dimostrato in questi anni di aver adattato il sistema di gioco alle caratteristiche dei giocatori, non si è mai fossilizzato su una linea. Marco è un giocatore che, cioè, per me i giocatori bravi possono giocare insieme. Noi all'Europeo l'anno scorso, per fare un esempio, partimmo con Marrone e Verratti. Marrone si è fatto male e giocò Fausto Rossi, che comunque sono giocatori più di palleggio, più di qualità che di gamba, tra virgolette. Quindi dipende sempre chi ci si mette chi ci si mette vicino, ma su questo Cesare è quello che secondo me ha le idee giustamente più chiare di tutti, avendo conosciuto, conoscendo alla perfezione le caratteristiche di tutti i giocatori, insomma. Comunque, noi, a me a Pardo piace questo sistema dei cinque centrocampisti, dei palleggiatori, almeno per iniziare le partite, anche per dare equilibrio ad una squadra che dietro sta subendo un po' troppo. Poi quando le partite si rompono, quando le partite si spaccheranno, ecco i guastatori. Ci sta, assolutamente. Ci sta. Pierluigi? Direi proprio di sì. E invece scusami, la questione Pirlo Verratti doppio play. Che ne pensi? Ma come dicevo prima, sono due giocatori di qualità. Per me i giocatori di qualità possono sempre giocare insieme. Il problema è quando non ne hai giocatori bravi, non quando ce li hai. E quando ce li hai, il modo di farli giocare insieme in genere lo si può trovare. Cioè, Verratti ha giocato un anno, due ormai a Parigi con di fianco Thiago Motta, che comunque è un giocatore di fraseggio, comunque di palleggio, insomma, no? L'equilibrio l'hanno trovato, sta sempre a trovare l'equilibrio con i giocatori da mettergli vicino. Noi riusciamo a farlo, però, no? È meno playmaker puro, è meno centratore Thiago Motta, cioè sicuramente un giocatore tecnico, però dipende sempre dalle caratteristiche dei giocatori. Noi l'anno scorso riuscimmo a giocare con due giocatori così, con Insigne a sinistra perché avevamo Florenzi a destra che ci dava un certo tipo di equilibrio, e avevamo due attaccanti che, detto in modo abbastanza diretto, si facevano un mazzo così quando c'erano la palla agli avversari. Alla fine quello fa la differenza. Io mi sarei portato anche un altro che mangia nell'Under 21, che è Florenzi, ma questo è un altro discorso. Antonio Cabrini l'altro giorno qui da noi ha detto, a proposito della poca esperienza internazionale di Immobile soprattutto, ma anche di Darmian, che con ogni probabilità partirà titolare, Verratti esperienza internazionale se la sta facendo, Cabrini l'altro giorno ha detto, in tornei come questo l'esperienza conta meno dell'incoscienza. Ma è un bel concetto, di sicuro conta, sentirci addosso, diciamo così, meno responsabilità può essere un vantaggio. Poi il problema dell'esperienza è un dato di fatto, ma di sicuro non è una colpa di Immobile o di qualcun altro, è un po' una colpa forse del nostro calcio, che fa fatica a far giocare i giocatori giovani bravi. Verratti ad esempio, tra i vari centrocampisti che ci sono in questa nazionale, è uno dei giocatori con maggiore esperienza internazionale, quindi è un dato a suo favore, insomma, è un dato a suo favore, ne ha già giocate di partite importanti lui. Noi l'anno scorso ci trovavamo in questa difficoltà quando giocavamo la finale contro la Spagna, che guardavi i nomi da una parte e i nomi dall'altra e dicevi, a parte Verratti, noi avevamo solo lui che aveva fatto partite in Champions League, dall'altra parte c'era l'impossibile, da De Gea a Isco a Rotte di ogni c'era, insomma. E poi io penso anche una cosa, che l'esperienza te la fai, nel senso che io non so dirti, non lo so, può essere sì o può essere no, se Insigne, Immobile, tanto per dirti, saranno dei giocatori con una grandissima personalità internazionale. Cioè io sicuramente non li conosciamo da questo punto di vista, ma appunto non li conosciamo, non è che sappiamo, certo, che non sono in grado di fare. Esatto, assolutamente. Magari assolutamente, in maniera clamorosa, magari hanno più esperienza. Probabilmente neanche Isco, quando l'hanno fatto giocare in Champions League, sapevano se avrebbe retto l'impatto oppure no, e lo stesso in nazionale, o Thiago Alcantara, però l'hanno fatto. E poi i giocatori, secondo me quelli bravi bisogna dargli la possibilità, poi una volta che sono in campo sta a loro riuscire a sfruttare le occasioni. Guarda che si parte in questo caso dal vertice. Il problema è quando non gliele si danno le opportunità. Certamente, però adesso si parte dal massimo possibile, cioè parti pronti via mondiale. Questo diceva Cabrini, certo. Io ho debuttato in Argentina a 20 anni, quando hai 20 anni, anche se non hai tutta questa esperienza internazionale, sei talmente incosciente che vai in campo senza pensare troppo. No, è vero, però il problema è che noi da questo punto di vista siamo un po' indietro rispetto ad altre nazioni. Io sinceramente, dopo il lavoro che è stato fatto l'anno scorso, quando l'ho detto mi prendevano per matto. Io ho detto che secondo me, con le giuste opportunità date dal campionato italiano, qualcuno di quei ragazzi si sarebbe giocato il posto nel mondiale. Fortunatamente poi è successo. Poi adesso è giusto che, come quando incominci a imparare a nuotare, prima o poi devi entrare in acqua e devi vedere se sei capace a stare a galla. È lo stesso discorso. Vai e vediamo quello che fai fare. Grazie mister. Buon lavoro, a voi, Denis Mangia. A voi, grazie mille, arrivederci. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Adesso ciao, saluto. Il signor Capuano. Cosa fa? Il signor Capuano ha twittato che ci siamo dimenticati di dire che stasera andiamo in onda alle 21.10. 21.10 su Italia 1. Lo ringrazio pubblicamente per questo tweet. Sì, ascoltami. Sì. Ha scritto, però mi dice Piantanina che ha scritto 21.10 ora brasiliana. 21.15 ora di Rio, sì, però io ho preso spunto dalla parte giusta del messaggio, che è 21.10 ora italiana. Adesso sì. Ti lascio andare al trucco. Dimmi, no, tranquillo, dimmi, vediamo. Ti lascio andare al trucco. Facciamo così, io temporeggio, perché avrei una riunione fra 3 minuti. Sì, vabbè, vai, io... dai, non guardi, non, poi no. arriva Mughini, Pierluigi ti licenzio, non voglio. Pierluigi, eccolo qua, dai. Al via. Solito ciarlatano, al solito cialtrone. No, dai, vai al trucco. Dimmi solo una cosa. Il borsino delle altre. Stiamo leggendo di vari casini assortiti che riguardano, poi ne parliamo, anche l'Argentina e il Cile con Vidal tutto rotto. Mi sembra che le altre stiano perdendo pezzi importanti. Anche l'Inghilterra non ha una faccia bellissima. Ma assolutamente, guarda che non c'è la differenza, semmai, appunto, nella famosa questione ottimismo non ottimismo, perché noi non stiamo benissimo, non stanno benissimo nemmeno le altre. C'è stata una quantità di infortuni, fra l'altro traumatici, quindi diciamo Sì. Scrivibili nella categoria della sfiga più che del logorio del calcio moderno, veramente fuori dal mondo, senza precedenti. Quindi io penso che nessuno ha certezze, non ce l'ha neanche il Brasile le certezze. Il Brasile ha una pressione addosso mostruosa e quindi noi ci siamo, non siamo tecnicamente, ragionando, una delle prime 3-4 squadre, ma siamo nel gruppo delle 3-4 squadre subito dietro, cioè siamo in seconda fascia e non dobbiamo aver paura di questo. L'Inghilterra, insomma, anche le amichevoli che sta facendo sono amichevoli così, insomma, ma certo, no? Ma tutte sono amichevoli, ma così recite, pure loro hanno, per cui non mi starei a fare chissà quali film. No, nemmeno io. Pier, ti vedo stasera in TV. Sì, grazie, vedimi stasera, ciao. Ma magari a 35 ci sono, adesso vediamo. Va bene, tu fammi sapere. Vediamo. Tu fammi Torniamo sapere. Tanto ciao. Io sono qui con Alberto Reiser, con cui tra poco parleremo. Ugo dalla provincia di Brescia, già in linea. Italiani, iscrivetevi al Partito dell'Ottimismo, dai. Tutti convocati. Per quanto riguarda il time out e il clima, l'umidità che abbiamo trovato qui, è fondamentale fermarsi, perché comunque con questo clima, con questa umidità, le energie si assottigliano molto in fretta. L'abbiamo vissuto l'anno scorso, lo vedremo, lo si vedrà anche quest'anno da quando inizierà il mondiale. Cambiano alcune città, sicuramente da Rio rispetto a Manaus, a Fortaleza cambia qualcosa. E quindi il fermarsi può aiutare sicuramente non soltanto noi giocatori, ma lo spettacolo per tutti quanti. E questo è un tema fondamentale, probabilmente la novità del giorno, perché la FIFA ha deciso, ci saranno tra le tante innovazioni arbitrali in questo mondiale, tra l'altro gli arbitri saranno equipaggiati come James Bond e la bomboletta è un orologio stranissimo, ipertecnologico, su cui verranno, che avrà varie funzioni. E poi c'è questa novità di oggi. Alberto Reis, il nostro convocato per un giorno, ti piace tutto questo o no? Allora, lo spray per segnare a distanza, lo spray direi che ci può stare. E questo ci può stare. Ci sono 14 camere che terranno sotto controllo le linee di porta in modo da, sì, questo sistema che peraltro è stato subito notato, la FIFA ha sdoganato, l'ha acquistato, eccetera, costa molto di più rispetto all'occhio di falco che si usa nel campionato inglese, quindi qualcuno può fare qualche ragionamento, esatto, un po' malizioso e magari torto non ha. Quindi quando la palla entrerà su questo orologio ipertecnologico dell'arbitro comparirà la scritta gol. Ti piace o no? Sì, questo mi piace, era necessario. Assolutamente necessario nel 2014. Ma poi soprattutto adesso sappiamo, l'intervento di Marchisio di prima era a questo proposito. Allora, è certo che un'ora e mezza prima dell'inizio delle partite dei mondiali la FIFA deciderà se, a seconda delle condizioni ambientali, climatiche eccetera, se l'arbitro decreterà i time out, uno per tempo al trentesimo della prima e della seconda frazione, ci si ferma, l'arbitro fischia, ci si ferma per 3 minuti. Ti piace o non ti piace? Ma detta così non mi piace, mi sembra un po' azzardato, 3 minuti sono tanti, non c'è stata una prova, una verifica prima, poi chi è che decide in realtà se c'è un clima così torrido da dover interrompere una partita. Mi sembra questo... che rompa un po' il ritmo della partita. Allora, in linea di massima io non sono contrario, l'unica perplessità, e non è una perplessità da poco, è che questa invece non l'abbiamo ancora vista, cioè non manca una sperimentazione ad alto livello di un sistema di questo tipo. Ugo dalla provincia di Brescia, il nostro ascoltatore, già iscritto anche lui alla partita degli ottimisti, giusto Ugo? Sì, buongiorno a voi e buongiorno a chi ascolta. Le manderemo a casa la tessera, la manderemo anche a vari altri ascoltatori. Cosa odierna, fino a ieri avevo un'altra tessera, avevo la tessera del pessimisti, devo essere sincero. Poi mi sono seduto avanti alla TV e ho guardato la partita Italia-Brasile trasmessa su un canale nazionale dell'82 e mi sono reso conto che quei cavalli borsi dell'82 si erano trasformati tutti in campioni. Mm. Era contento di uno per uno, da Oriali a Scirea a Collovati, a Graziani, eccetera. Ci si rende conto che un giocatore messo insieme, chiamata squadra, come possono trasformarsi nel giro di pochi giorni. Ma vede il potere della comunicazione, vede come si fa a far politica? Abbiamo lanciato il partito, siamo scesi in campo col partito degli ottimisti, adesso tutta Italia sta diventando ottimisti. Italiani, iscrivetevi, mandiamo le tessere a casa a tutti, anche a chi scrive, speriamo che tornino a casa in tre partite. Tessera d'onorem, magari cambia idea. Mi dica. Per cui voglio dire, io sono convinto che i ragazzi che sono in Brasile, presi individualmente, sanno giocare al pallone. Notare in dialetto bresciano di Genova, manca per Rigo al Balù, fa questa seconda fa. Prandelli penso abbia detto in italiano, anche se è di Brescia, ma comunque la traduzione è quella. Il significato fondamentale, io ho fiducia nell'allenatore, i ragazzi sono convinto che devono trovare solo fiducia in se stessi, non aver paura di nessuno. Ma certo. Non dobbiamo aver paura, fondamentalmente. E i nostri giocatori di chi devono aver paura? Degli altri che sanno giocare meglio, perché loro forse non sanno giocare a pallone, non l'hanno dimostrato, manca esperienza. Grande Ugo, meraviglioso comizio per il nostro partito, grande Ugo. Mi ripete come si dice in bresciano? Allora, vi saluto. No, mi ripete come si dice in bresciano, cos'è che aveva detto? Va in campo e gioca al Balù come te sei buio fa, va in campo e gioca a pallone come sai fare. Filippo Maria Ricci, prego ripetere. Ciao Filippo. Va in campo e gioca il Balù. Ma te sei bunde fa. Come sai fare? Sì, te l'ho detto un po' alla brasiliana io. Grandissimo Filippo. Come si sta lì? Sei a Belo Horizonte, giusto? No, io sono a Curitiba, l'unico posto freddo del Brasile. Visto? La Spagna è l'unica nazionale che si è messa al freddo. No, allora, tutti mi prendono in giro. Cioè, io non so dove parlo, non so dove sei tu. Nessuno mi dice niente. Informiamoci, mi danno informazioni sbagliate e io non so dove siete, ragazzi, mi sento un po' perso. Io sempre qua a Milano, voi in giro per il mondo, io perdo i conti e divento pazzo. Comunque noi siamo qui in questo strano posto di 32 nazionali, la Spagna è l'unica che si è messa a 5-6 gradi, gli altri stanno tra i 20 e i 40. Sì. Vediamo, stasera se ne vanno a Bahia dove fanno 20 gradi in più. Sì. E poi venerdì giocheranno con l'Olanda. Sì. Come stanno? Benissimo. Benissimo, vedi? Lo dico così, sì. Li vedo, guarda, a parte che vedere gli allenamenti della Spagna dovrebbero fare dei video da distribuire nelle scuole, è sempre molto bello, Perché? Dire, questo è molto. Giocano proprio bene, il livello tecnico è altissimo. Li vedo intensi, carichi. Ma vedrai che poi magari anche noi arriviamo lì. Gli spagnoli giocano con il sorriso, sono ottimisti di natura, ma noi abbiamo fondato il partito degli ottimisti. Vedrai che anche la nazionale italiana avrà il sorriso stampato in faccia. Tu sei ottimista? Io lo spero. Sei ottimista? Ma perché no? Perché bisogna essere pessimisti? Questo mondiale è complicato un po' per tutti, secondo me le condizioni sono difficili, per cui perché non essere ottimisti? Non abbiamo uno squadrone, no, non c'è il giocatore che ci può risolvere la partita da solo, è difficile. Però la squadra è buona, insomma, vediamo. Non vedo in giro, cioè ogni squadra ha almeno un punto debole. Certo, almeno un punto debole, ogni squadra, almeno ogni grande squadra ha diversi problemi fisici, esatto. più o meno gravi. Ti voglio chiedere due cose. Stavamo parlando di queste innovazioni arbitrali, sei d'accordo o no? È stato introdotto così, allora, all'improvviso spray, la storia dello spray e la linea goal line technology, esatto. Mi sembra goal line technology fondamentale, sì, questo sono, dire, ma certo l'abbiamo detto un miliardo di volte. Al povero Capello gli hanno tolto un un gol che povera, sì. Cioè con la Germania, da quella è un'Inghilterra Germania, cioè un errore, non è che errori di centimetri, di chilometri, ma poi bene, soprattutto c'è questa terza innovazione che è stata sdoganata praticamente ieri del time out. La FIFA decide un'ora e mezza prima della partita, se in base alle condizioni climatiche verranno concessi due time out, uno al trentesimo del primo tempo e uno alla mezz'ora della ripresa. Ma così d'amblè, senza sperimentazione? Vabbè, ma così è blatter, se tu mani decide che la porta è larga 14 metri, cambiano tutte le porte, dai. Non è, cioè, lui fa così, come gli pare, il calcio è governato così. Una multinazionale si sta mangiando il pallone, quello della FIFA è un brutto potere perché se guadagnano 4 miliardi di dollari e il campione ne prende 35 milioni, è una differenza da non crederci. Questa è una cosa che la gente deve sapere. Bill Gates si è guadagnato i suoi soldi, lui no, prende 4 miliardi senza fare niente. L'ha detto Diego Maradona. Esattamente. Vecchio ribelle, c'è un grosso fondo di ragione in tutto questo. Insomma, adesso Blatter si candida per la quinta volta. Sì, vediamo cosa succede con la storia del Qatar, perché mi sembra un po' presto per parlare di. Insomma, la cosa del Qatar, dai Carlo, vedi, ma il mondiale non ha un posto dove quando va bene fanno 35 gradi, dai, poi non hanno una tradizione calcistica, niente. Allora, se hanno preso la mezza davvero e lo dimostrano, se davvero hanno preso la busta e lo dimostrano, allora è tutto da rivedere, compresa l'assenza del mondiale in Qatar. Ma detto che Platini... noi non arriveremo in Qatar, secondo me dovrebbe essere. No, non andremo in Qatar. Non andremo in Qatar e poi tutto il resto è da vedere. Quindi dopo si parlerà di rielezioni eventuali di Blatter, Platini, eccetera, eccetera, eccetera. Phil, ti posso chiedere ancora un minuto dopo il traffico, perché ho bisogno di sapere da te come sta Messi? Perché sono preoccupato. Vai. Strade, poi Filippo Marelli ce lo dice. Tutti convocati. Este es poder, pero poder, poder feo, porque si se ganan 4.000 millones de dólares y el campeón se lleva 35 millones de dólares, Víctor Hugo, hay una diferencia que no se puede creer, y eso lo tiene que saber la gente. La multinacional que es la FIFA se está comiendo la pelota. Queste parole originali del pibe Diego Armando Maradona. Un'ultima cosa per Filippo Maria Ricci. Allora, Messi come sta? Perché ieri ho letto quanto avete scritto, sulla Gazzetta, tra l'altro. Bravi ragazzi, un qualche problemino. Cacale prese con nuove fiamme, un matrimonio che vacillante. E l'altra faccia pulita del calcio mondiale, Messi, che va in campo, continua a vomitare e c'è dietro qualche cosa di, forse, di oscuro, di inquietante. Sicuramente, ieri il papà, sì, Jorge, è intervenuto alla Radio Laredo, una radio argentina, dicendo che niente, il vomito non si sa, però niente di preoccupante, tutto a posto. E poi ha detto che El Mundo e El País sono due giornali di destra, sì, e c'è una congiura contro Messi. Sì. E che si sono inventati tutto e che non c'è nessun problema con le amichevoli. Sarebbe per ricordare, vabbè, a parte le grane con il fisco che non sono finite per Messi. No. Punto no, primo. Ha pagato 5 milioni più il processo è ancora aperto. E dovrà sborsarne molti altri. Sì, questo può essere sufficiente per giustificare reazioni nervose di quel tipo. Ma soprattutto c'è la storia di queste amichevoli che sarebbero state combinate. Esatto. Con la partecipazione di Messi, intorno al quale c'era un giro di pulizia, di lavanderia di certi soldi. Esatto, lavanderia del dinero. E oggi il Paese ci fa un'altra pagina sull'argomento. Per me, io ti dico, ovviamente non è una cosa che ho seguito in maniera diretta, però per quello che io ho letto, sì, tra Paese e mondo, c'è più di una ragione per preoccuparsi. Messi intanto è già stato interrogato dalla Guardia Civile, per cui appunto, come io scrivevo, c'è più di un motivo per essere nervoso. E mi attacco a quello che dice, alle due cose con cui hai aperto, la voce di Maradona e il fatto che tu dici che Messi ha la faccia pulita. È così, e se Messi, cioè se queste cose le avesse fatte Maradona, avremmo tutto un altro tono e così. Lui sì. si salva perché sembra un bravo bambino, è tutto a posto, fa silenzio, non fa proclami e cose così. Però per me c'è del marcio, ma a grande, grande livello. Attenzione, perché questa è grossa e quindi si potrebbero spiegare molte cose. Certo, le avesse fatte Maradona sì. l'avrebbero messo su una croce e Dieguito invece sarebbe andato in campo tutt'altro che vomitando, guardando tutti negli occhi e vincendo magari esatto. il mondiale da solo come aveva fatto. Esatto. Forse c'è una leggera differenza tra i due. Vabbè, grazie Phil, buon lavoro. Ciao. Tanto c'è un ascoltatore, si chiama Teto, che è d'accordo con Filippo Maria Ricci, non con noi, gli piace il time out perché è perfetto per la birretta. Caro Alberto Reise, come lo vedi Messi? Hai sentito questa storia? La sapevi? Ma sì, sapevo più o meno, ma non ho idea. Sicuramente non è una cosa simpatica, sicuramente qualche problema c'è, però giudicare così da lontano assolutamente non sarei in grado. Sono d'accordo cioè. Invece su quello che diceva riguardo Maradona. Se succedesse a Maradona, sarebbe Maradona l'avrebbero messo, l'avrebbero impalato, esattamente, seduta a stante. Invece lui Messi è più... No, Messi si salva perché quest'aria da bravo ragazzo. Allora poi ci dovesse davvero scoppiare il putiferio, allora Messi non sapeva, poverino, lui si pensava a giocare. Se poi suo padre ha fatto dei casini o se ha avuto intorno gente sbagliata, assolutamente, no, poverino, assolutamente. Si dirà poverino Messi. Luca da Genova, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Buongiorno. Allora, parlo con te, finalmente parlo pure con te. Ho parlato con Giovanni un mese fa. Sì. Visto, ho parlato con tutti. Bravissimo. Pure con Pardo, Benissimo. Ho parlato pure con Pardo. Allora, anche a me una tessera per i non i pessimisti. Anzi, il contrario, ottimisti. Bene, la mandiamo. Ci mandiamo la tessera, poi vediamo se la maglietta o no. Vabbè. Distribuiamo vincere tessera no, la maglietta. Beh? Vincere no, non vinciamo, la coppa non alziamo. Però sono convinto che arriviamo a fare i primi tre. Scrivitelo, Luca ha detto fra i primi tre. Scrivo, prendiamo appunti Luca. Poi tra l'altro un'altra cosa che mi interesserà sapere nei prossimi giorni, insomma ieri abbiamo parlato un po' le vostre emozioni, i vostri ricordi mondiali, perché come dicevo, ma poi i messaggi lo confermano, le telefonate lo confermano, in questo periodo un po' il tempo si ferma per tutti noi, è la fine, l'inizio dell'estate, c'è il sole, abbiamo voglia di mare, di amore, di pallone, quindi i mondiali sono così e ci portiamo in tasca tutte le istantanee, le polaroid dei mondiali che abbiamo vissuto, che abbiamo vinto, che abbiamo perso. Luca su Twitter scrive che i time out serviranno alla Rai per ripristinare il collegamento. Franco da Milano, buongiorno. Ciao gente. Altro tesserato, via. Ciao, senti, ti volevo intanto fare i complimenti per la trasmissione, che è veramente bella, frizzante, bella, come piace sentirla, ecco. Obrigado. Poi una cosa, ti racconto un aneddoto. Io nel 2012 ero a Bolzano per lavoro una settimana e sono capitato nella partita Germania-Italia, nella civilissima Bolzano, no? Ed ero fuori nel bar, c'erano 200 persone, ti lascio immaginare, 150 magliette con la maglia tedesca, Gomez, certo, Ozil e quant'altro. Sì. Noi eravamo in 6 italiani. Netta minoranza. Partito di nettissima minoranza. Avevamo 5-6 pinte in corpo e ci siamo divertiti come dei pazzi. Come dei pazzi con quella partita. Poi avrebbe finito braccio a braccio, poi siamo andati nell'arco lì in piazza, Piazza Valtro e compagnia bella, sì, a far casino, certo. È stato tutto molto... Franco, bellissima questa, io voglio chiedervi anche di raccontarmi come vedrete i mondiali, io sono curioso, come li vedete, quali scaramanzie avete, con chi siete, che fate, cosa portate, un fiorino, no, voglio sapere veramente come vivete i mondiali e come avete vissuto quelli che avete attraversato nella vostra vita. Adesso, caro Alberto Reise, ci fermiamo un attimo perché c'è il Bet Corner, angolo consigli per le scommesse, poi GR e poi torniamo un'altra ora insieme. 800 24 0024 è il numero verde. quote e pronostici. Serata di verdetti importantissimi in Serie B. Si gioca infatti per il ritorno delle semifinali playoff e si comincia con la gara delle 18 al Manuzzi di Cesena, dove scendono in campo Cesena e Modena, con i padroni di casa che all'andata espugnarono il Braglia con gol di Marilungo. Sono queste dunque le quote sniper. Questa partita, l'1, la vittoria del Cesena, è quotata a 2,35, l'X è a 3,10, il 2 invece è quotato a 3,20. Il 2-2 dell'andata al San Nicola pone invece la Latina in lieve vantaggio sul Bari nella sfida delle 20:30 al Francioni. L'1, la vittoria della Latina, è quotata a 2,50, l'X è a 3,20, il 2 invece, la vittoria del Bari, è quotata a 2,85. Infine, questa sera alle 21 a Rimini si gioca la finale del campionato primavera tra il Torino e il Chievo. La vittoria di Granata, l'1, è quotata a 2,30, l'X è a 3,10, il 2, il successo del Chievo, è quotato 3. Questa era l'ultima delle quote slide di oggi, ci risentiamo domani. Tutti convocati. Siamo gli ottimisti. Ben ritrovati al consueto appuntamento di ottimismo contemporaneo obbligatorio. Non c'è niente di nuovo. All'inizio di tutte le manifestazioni in Italia c'è sempre il pessimismo. Yeah! Io dichiaro ufficialmente che fondo il partito dell'ottimismo. Yeah! Secondo me c'è troppo poco entusiasmo, porca vacca, secondo me andiamo là e vinciamo. Yeah! E quando mi è stato posto la domanda chi vince i mondiali, io ho detto l'Italia. Yeah! Dai, basta piangere addosso, di qui e di là, vinciamo noi. Siamo gli ottimisti, ben ritrovati al consueto appuntamento di ottimismo contemporaneo obbligatorio. Yeah! Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. Allora, una tessera anche a Massimiliano, che è socio d'onore, che scrive: il tempo si fermerà per te, riferito ovviamente agli appuntamenti dei mondiali, al fatto che diventano un momento davvero così, del pop, un momento della nostra vita. Lui scrive: il tempo si fermerà per te, io penso a quanto ci costano sti eroi del cavolo. Demagogia pura. Demagogia pura, vero Alberto Reis, nostro convocato per un giorno. Allora, dobbiamo trovare un ruolo nell'organigramma del partito per Dario Ricci, nostro inviato in Brasile. Ciao Dario. Ciao, buon dia da Mangaratiba, Carlo. Che ruolo vuoi nel partito degli ottimisti? Che, partito Piantanida ottimisti, è il segretario, certo. Scaltritti in regia e vice segretario, Claudia Schiattone la tesoriera. Mica male, eh? Io faccio volantinaggio porta a porta, insomma, perché vedo che l'organigramma è già ad altissimo livello, e quindi già il fatto che mi fa entrare nella squadra. Tu fai il ministro degli esteri, hai la delega agli esteri, facciamo così. Ah, vabbè, allora vi ringrazio. Ovviamente il fondatore, come sempre succede, è quello che non prende cariche, così in galera ce l'andate voi. Guarda dall'esterno e si prende i soldi. Va bene? Tutti d'accordo. Funziona così. Funziona in questo modo. Senti, sei riuscito a entrare nell'allenamento blindato degli azzurri o ti hanno arrestato prima? Guarda, ieri con la maschera da palombaro non sono riuscito, perché più talmente tanto che poi erano tutti mascherati da palombaro. Esatto. Hanno peccato facilmente. Beccato sto studiando, la fauna locale per cercare di mimetizzarmi come magari qualche uccello tipico qua della zona, approfittando anche del mio naso sicuramente non banale, e sto mettendo a punto questo travestimento da un reale piume, insomma. Ti vesti di piume. Vediamo. Ma secondo me vedrai che prima della fine dei mondiali ce la fai a entrare nell'allenamento proibito. Io sono fiducioso. Tra l'altro, Carlo, a proposito di persone che sono entrate oggi, sì, invece con tutti gli onori nel ritiro, sì, e tra l'altro vedendo gli azzurri che si stanno allenando, ti dico subito, c'è anche Verratti, quindi vuol dire che la febbre è passata, e quindi è molto importante questo in chiave Inghilterra. Ma è entrato con tutti gli onori un signore del calcio, Juninho Pernambucano, però, che è venuto, ha tirato due punizioni, ha spaccato una porta e è andato via. Però quasi, perché ha scambiato la maglia con Pirlo, complimenti, anzi Pirlo gli ha regalato una sua maglia, si sono scambiati complimenti, riconoscimenti reciproci, grande abbraccio, anche perché come sapete Pirlo si è sempre ispirato, ha sempre dichiarato di essersi ispirato al Giuninho nella sua tecnica di punizione, e poi ha anche speso belle parole via telefono con noi giornalisti per Pjanic, per il romanista Pjanic, che aveva ereditato, ha giocato insieme a Giuninho a Lione, ne ha ereditato per qualche stagione il numero 8, e ha detto anche Pjanic è uno di quei giocatori che calcia benissimo le punizioni, e come Pirlo ha la stessa umiltà di sapere che bisogna sempre lavorarci con grande attenzione. E poi ha dato un'altra indicazione molto importante, Carlo, occhio, che lo dice uno che ha detto attenzione al caldo, all'umidità, un giocatore come Pirlo se si idrata bene durante la partita e in queste condizioni particolari può fare un grande mondiale, ma attenzione perché anch'io dopo 10 anni di Francia, ha detto Giuninho pernambucano, quando sono tornato a giocare l'ultimo paio di stagioni qui in Brasile, lo dice lui, è brasiliano eccetera eccetera, ho sofferto per il caldo e l'umidità, quindi andiamo a immaginarci che saranno le nostre 3 partite, quindi prepariamo il frullatone di papaya per gli azzurri. Li curiamo bene, tanto non a spese nostre, tendo a ripetere, no? Non vi preoccupate per quanto costa il ritiro, sono soldi della FIFA, quindi state tranquilli con queste menate su e quanto prendono e quanto costano e quanto mangiano e quanto fanno. Alberto, vuoi chiedere qualcosa a Dario Ricci in Brasile? Hai qualche curiosità da toglierti? Ma non, mi sembra che il tempo non sia così caldo, almeno dove sono gli azzurri. È normale. Ma perché vedi Prandelli sempre vestito col cappotto? Ma perché ieri diluviava, ho visto un piccolo filmato. È normale, oppure ci si devono aspettare anche durante le partite queste? Guarda, Alberto, il meteo sarà molto mutevole perché in questi giorni qui, come giustamente hai detto, ieri ha diluviato, neanche fosse stato le cascate del Niagara, dall'altro sta diluviando in tutto in grande parte del paese, pensa che è Iguazù, le cascate praticamente per 2 giorni non c'erano, nel senso che il livello dell'acqua ha raggiunto appunto il record storico di sempre, quindi la cascata era stata cancellata da questa cosa. Però appena spunta il sole, come ad esempio in questo istante, andiamo subito intorno ai 25-30 gradi, più 30 che 25. La situazione sarà ancora su per giù peggio a partire da Manaus, perché siamo più vicini all'equatore, quindi umidità, ieri sera per esempio a Manaus 33 gradi, 80% di umidità. Tipo Milano in questi giorni. Dario, stai collegato perché adesso devo salutare un signore che conosci molto bene, uno dei nostri preferiti in assoluto. Danilo Gallinari, ciao! Ciao! Come stai, Dani? Molto bene, te? Io benissimo, ma cosa stai facendo adesso? Geolocalizzati, dove sei? Posso chiedere? Dove sono? Sono appena tornato da un camp dell'Adidas che abbiamo fatto a Treviso. A Treviso. Non giriamoci troppo intorno, come sta quel ginocchio? Bene, finalmente bene, sono passati quasi 4 mesi e mezzo dall'ultima operazione e sta andando tutto molto bene, insomma. Quindi tutto secondo programma, tutto secondo tabelle previste, eccetera, eccetera. Esatto. Torni? Torno, l'obiettivo è quello di tornare per la preparazione, quindi la preparazione inizierà inizio ottobre e quindi quello è l'obiettivo. Non te l'ho mai chiesto, ma avresti fatto qualcosa di diverso nella gestione di questo infortunio? Sappiamo bene, Giuseppe Rossi ha avuto problemi analoghi, siete stati visitati dagli stessi dottori, eccetera, eccetera, eccetera. Avresti fatto una cosa diversa? A tornare indietro sceglierei un dottore diverso. Giustamente. Però purtroppo, sai, quando chiedi al tuo agente dammi 3 migliori d'America e scegli uno dei 3 che è quello che sbaglia l'operazione, sono un po' sfigato, però sì. È andata così e niente, adesso dai, sto bene, tutto alle spalle. Che squadra ti aspetti l'anno prossimo? Ma la società vuole mantenere la stessa squadra, sono stati molti infortuni, quindi la vera potenzialità della squadra non l'abbiamo mai vista quest'anno e quindi per quello che credono molto nel gruppo che c'è, penso che non ci siano stravolgimenti particolari. Finale NBA, Dani, 2-1 San Antonio, nella notte hanno vinto, ma hanno vinto in maniera in maniera importante. 111-92, ma al di là del punteggio, tenendo sempre inerzia la partita, le mani sulla partita, la testa sulla partita, Miami si è sciolta presto, ha tentato un rientro, poi c'è stata una tripla di Bellinelli molto importante, ha giocato solo 6 minuti, soltanto 3 punti, soltanto quel canestro da 3 punti, però estremamente importante perché ha ristabilito le distanze, ha permesso a San Antonio di gestire la partita. Io credo, ma lo penso dall'inizio della serie, che insomma gli Spurs si possano riprendere quello che l'anno scorso hanno lasciato per strada. Sì, sì, anche secondo me hanno veramente regalato la serie l'anno scorso, quindi non penso che la regalino ancora quest'anno. Altro tuo grande amore Milano. Sai che l'altro giorno ho parlato con Banchi, insomma non eravamo tanto d'accordo su diverse cose, su queste onde. Milano non sta facendo un grande playoff, secondo me, Danino. È in finale, d'accordo, ma non sta facendo un grande playoff. Ma si aspettava magari che lo dominasse un po' di più, probabilmente. Però sai, alla fine è anche vero che ti dico, vincere non è mai facile, quindi tutti gli anni comunque, anche se il livello magari è diverso, ci sono meno squadre contendenti, così comunque non è facile. Adesso insomma penso che debbano essere belli concentrati per la finale, perché è il momento finalmente di portare a casa lo scudetto. Sì, dopo un po' di anni di portare a casa sto scudetto. Un'ultima cosa, Dani, mondiale di calcio? Li guardi, non li guardi? Come no, tifo, spero di non fare troppe follie con amici e cose così, però saranno belli carichi come al solito. L'ultimo mondiale abbiamo fatto cose da non dire, quindi sì. Sempre carichi e forza Italia. Io sono sempre molto ottimista. Ma tu hai sentito che ho fondato un partito, no? Ho fondato il partito degli ottimisti. Sto raccogliendo un sacco di adesioni, stiamo tesserando, l'ho fondato ieri già un sacco di adesioni, perché sono stufo di andare ai mondiali con l'umore sfigo cupo e pessimismo e polemiche, tutte queste cose, non siamo capaci di ridere. Il mondo c'è già troppo casino, se uno è anche pessimista è un disastro, quindi bisogna essere ottimisti quando si può, bisogna essere ottimisti, però queste cose qua si parla di calcio e non di guerra, quindi. Ma sicuro. Ma poi abbiamo 4 stelle sulla maglietta, solo il Brasile ne ha 5, dai, ma perché dobbiamo essere, ma no, sentirsi così sfigati? Ma infatti. Immobiliano o balotellista? Ma io tutte e due, perché no? Non so, io non sono esperto di calcio, ho sentito che non possono giocare assieme, che possono giocare assieme, non lo so, alla fine l'allenatore è quello che ne sa di più, quindi non lo so, però a me piacciono tutte e due. Ecco. Un'ultima cosa, Danilo, novità del giorno, hanno introdotto i time out, hai sentito? Cioè la FIFA un'ora e mezza prima della partita decide, ok, fa caldo, ci sono le condizioni per... questa innovazione, al 30° del primo tempo e del secondo tempo l'arbitro fischia time out di 3 minuti. E tutti che vogliono imparare dalla pallacanestro. Copioni, eh? Esatto. Ciao Dani, grazie, ti abbraccio. Ciao. Sempre un piacere, Danilo Gallinari. Dario, ci sei? Eccomi, sì, ci sono. Tra l'altro, Carlo, una delle godurie massime di seguire i mondiali in questo continente è che sono perfettamente allineato sul fuso migliore per le finali NBA. Esatto, ieri bravo. Sera alle 22:30 torno a casa e accendo e mi sono visto tutta la partita, finalmente basta con quelle alzatacce, almeno quelle risparmio, veramente una goduria. Giovedì, tra l'altro, mi pare che siamo alle 20 o alle 21 qui locali, quindi prime time, vi butto sul divano, non chiamate, per carità. no, ma io ti invidio moltissimo, perché io non riesco ad arrivare alla fine, cioè sì, alle 3 di notte una partita NBA dura 3 ore e mezza, sinceramente ne la faccio a una certa età. Ce la mettono tutta per farmi calare l'umore molto alto con sta storia del costo della spedizione, una vergogna morale o come preferisce chiamarla. Ce la mettete tutta proprio per farmi calare l'umore alle stelle. Alberto, a te cala l'umore, ti frega no, qualcosa? No, di non quanto? Mi frega niente. E direi 300, che... 300 euro a notte per la stanza, ne hanno preso 94. Abbiamo poi detto che questi soldi sono quelli della i soldi che FIFA, esatto, che la Federazione Italiana ha preso dalla FIFA. E sono stati fatti anche altri conti, cioè alla fine della spedizione comunque la Federcalcio, l'organizzazione italiana, guadagnerà dei soldi per sponsor, per per tutto l'indotto che c'è intorno. Cacci sordi! Mio amico De Laurentiis. Quindi? E quindi credo che assolutamente siano discorsi fuori luogo, anzi io credo che queste persone che siano così negative su questi aspetti hanno un solo mezzo, hanno solo da non seguire il calcio, così non si faranno più il sangue marcio rispetto a queste cose. Se lo seguono è perché la cosa comunque continua a interessargli e non vedo perché debbano ma poi non capisco queste tutte, vengono fuori problemi su quanto prende Prandelli. Allora, l'ho detto molte volte, sono cose che non io non riesco veramente a concepire. Va bene, guadagna 1.700.000 euro, un sacco di soldi. Noi, almeno io non li guadagnerò mai, nemmeno in tutta la vita. Sono molto invidioso e dichiaro pubblicamente la mia invidia totale per Prandelli, Balotelli, qualunque calciatore. Li invidio profondamente, però queste sono le leggi del mercato. Le leggi del mercato, dunque non vedo perché uno dovrebbe andare ad allenare una squadra, se è un professionista, andare ad allenare una squadra sotto costo, rinunciando a stipendio, ma in che mondo siamo? Cioè, voi lavorereste senza stipendio perché vi piace la vostra azienda? Ma io no, Dario Ricci neanche io, scherziamo. Ci devono pagare, Ricci, ci devono pagare. C'è un gente da fare. Assolutamente, sono d'accordo, ma ti dico pure una notizia: che è iniziata la partitella, la prima volta che giocano proprio due squadre contrapposte. Dammi la formazione, dimmi chi c'è. Pronto, ti sto ascoltando. Ecco, ti dico subito. Allora, in porta, chiaramente con gli arancioni che sembrano isolati, c'è Perin, poi vedo Darmian, Chiellini, Barzagli. Sì, difesa a 4, poi dal centrocampo De Rossi, Pirlo, Candreva e poi vedo Insigne, Immobile. Con l'altra squadra a guidare l'attacco c'è Balotelli, quindi sì. Chiaramente continua su questa falsariga Prandelli. Verratti, ah ecco c'è pure Cassano chiaramente coi blu. Verratti in questo momento non lo vedo, al centrocampo vedo Aquilani, Marchisio. E poi Riccardo Signori del giornale che ha visto, cioè Verratti quei blu, vero? No, con gli arancioni, ecco. Verratti era l'altro di centrocampo che era coperto, eppure questa assomiglia molto a una squadra titolare. Questa sembra una squadra titolare, no? Sì. Sembra proprio. Lo chiedo qua Riccardo Signori del giornale con cui condividiamo questa avventura. Riccardo, sembra la squadra titolare questa. Titolare con Immobile e Insigne, questo potrebbe essere anche un segnale, cioè pensare che Prandelli comincia a torturarsi un po' ancora per capire se quale sia la soluzione migliore, però niente è definitivo perché tutto sommato ci sono Balotelli e Cassano dall'altra parte e giocano contro una sorta di squadra titolare, quindi molto spesso i allenatori usano gli attaccanti principali per giocare contro la squadra titolare per impegnare un po' di più. Certo, poi abbiamo Marchisio comunque tra i blu, che comunque Marchisio potrebbe anche starci in centrocampo di panzi, insomma nel centrocampo di qualità c'è sicuramente, ecco. Quindi però Carlo è stata un po' un'epifania, no Riccardo? Sì. Vedere di solito quando Prandelli dalle fratine mette queste arancioni, poi ne dati alcune verdi e tieni altri in blu per un giochetto di scambi di prima, no? A centrocampo. A un certo punto invece si sono materializzate le due squadre, il pallone in mezzo, e questa è partita. Tra l'altro è iniziata subito con fischio d'inizio e Balotelli che tira da centrocampo sopra la traversa, insomma. Quindi magari contentissimo non è. No, magari no, però volevo provare la gamba, vedo che si sta impegnando molto. No, quelle cose che come tu ben sai, se le fai nelle giovanili, pigli la palla e tiri da centrocampo, l'allenatore ti tira due schiaffi, perché vuol dire che... perché sai, non è esattamente quello che va, cioè è un gesto quasi dimostrativo. Giustamente Franco Piantanella poi mi fa notare che questa potrebbe essere formazione titolare e in porta c'è Perin, perché nelle dinamiche di questi allenamenti metti il portiere titolare dall'altra parte, che è quello che prende i tiri in porta, no? Quindi... infatti diciamo che la difesa arancione è guidata da Perin, quella dei blu da Buffon chiaramente, quindi tra l'altro appunto allenamento a ranghi completi, Darmian tra i titolari, tra l'altro ecco Insigne che fa un bel inserimento, il destro finisce sul fondo. Quindi, insomma, si sta, ce l'ha voluta un po' far vedere, dai. Oggi ci abbiamo da parlare con, abbiamo da parlare tra l'altro con Pirlo in conferenza stampa, quindi molto bene. Potremo chiedere a lui, che non ci dirà nulla, non ti dice niente, bocche cucite totali. Senti Dario, nasconditi lì, magari prova a rimanere dentro l'allenamento, non farti mandare fuori, tu provaci. Io adesso provo, tiro fuori il vestito da pupa reale tropicale, vediamo se e nel caso se ti legano, di che ti manda Pardo, sempre, ok? Sempre. Di che ti manda Pardo, non ti sbagli mai. Grazie tutto Dario. Tutto sul conto di Pardo. Ciao Dario Ricci, a dopo. Ciao. Franco da Bologna, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, Franco da Milano. Ma ha scritto Bologna. Vede, stanno facendo di tutto per farmi diventare matto. Non mi dicono dove stanno. Non mi dicono dove stanno, dove sono, dove è Pardo, dove è Filippo Maria Ricci. Mi prendono in giro, mi scrivono Franco da Bologna. Veda lei come mi posso sentire io. Non c'è i problemi. Senti, sono un fan sfegatato delle finali NBA che riesco ancora a vedere nonostante l'ora ariaccia cui ci fanno svegliare. Volevo sentire il tuo parere. Secondo me Miami gioca col freno a mano tirato. Anche ieri era più 22 San Antonio, ma quelli in due minuti hanno ricucito 12 punti. Però Franco, se tirano il freno a mano in una finale NBA, cioè, possiamo dire che le cose non vanno bene per loro. Secondo me il numero 6 non è neanche al 70%. Sì, questa sensazione non ce l'ho avuta ancora, non è ancora venuto giù col suo reale potenziale. Anche se gara 2 racconterebbe una storia diversa. Ieri invece così 22 punti, partita abbastanza anonima, la prima partita era stata quella dei crampi, però io vedo San Antonio favorita. E ti dico la verità, al di là di Berinelli, io tifo San Antonio perché è una squadra che è all'ultimo giro di pista, è una squadra che ha segnato un'epoca, una dinastia. Ci sono molti giocatori che chiuderanno dopo queste finali NBA, da Ginobili a Duncan, su tutti, vediamo cosa fa Parker. Probabilmente Messina andrà lì a fare il vice di Greg Popovich l'anno prossimo, perché questo si dice, si legge, si sente, in attesa di prendere il testimone nella stagione successiva. Questo è il disegno, io tifo San Antonio, amen. Grazie Franco, ci sentiamo dopo la borsa di nuovo insieme, torniamo a parlare di questa questione dei time out che vedremo ai mondiali. Le promesse le mantieni, ogni volta dici io sono sempre pronto quando mi chiamano, difficilissimo in quella situazione entrare per così pochi minuti in quel momento, piazzare quel tiro. Non lo so, forse perché ero incazzato, però niente, sono entrato in campo e sono stato aggressivo in attacco e in difesa anche per pochi minuti, però questa è una finale NBA, l'importante è, come sempre detto, è vincere, quindi in qualsiasi situazione, se saranno 5, 10, 15, 20 minuti, cercherò comunque sempre di dare il mio contributo e sono contento con la vittoria di stasera. Tutti convocati. Secondo Alessandro, l'altro ascoltatore che scrive un messaggio, la formazione dell'Italia che sta giocando adesso in questa amichevole, abbiamo sentito prima Dario Ricci, c'è stata questa formazione: Pettorine, Arancioni, Perini in porta, Darmian, Chiellini, Barzagli, De Sciglio, De Rossi, Pirlo, Candreva, Verratti, Insigne, Immobile. Ha tutta l'aria di essere una formazione titolare. Secondo il nostro ascoltatore invece questo è il classico difesa contro attacco, quindi Balotelli dall'altra parte contro i difensori titolari e Buffon da questa parte per essere meglio testato. Non lo so. Massimo Chiesa, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Come stai? A tutti i radioascoltatori. Bene, di ritorno dall'estero, bene. Di ritorno dall'estero. No, io avevo voglia di parlare con un arbitro vero di queste innovazioni. Di queste innovazioni, perché sai, il commento più gettonato alla notizia secondo cui avremo per la prima volta i time out in Brasile, indovina qual è? Chissà quanto ha preso Blatter dalle TV per creare questo spazio per la pubblicità. Beh, volendola vedere con malizia, potevamo aspettarcelo una reazione del genere. Io invece tendo a pensare positivo, nel senso che il clima che i calciatori troveranno in Brasile in alcune città è veramente insostenibile, non tanto per andare in vacanza evidentemente, ma quanto per giocare a livello agonistico elevato. Sì. Una partita di calcio, come si deve. Io sono favorevole, non ho sentito prima, non so come la pensi tu, sono favorevole perché al di là della discrezionalità si deve dar tempo a questi ragazzi di rifiatare. Sì. Io vengo da esperienze di campo, come sai. Certo. I 30, 35, 38 gradi ti stroncano, ti a livello proprio di respirazione, a livello fisico, eccetera, la resa inferiore, la reattività inferiore. L'ossigenazione evidentemente è inferiore. Personalmente ho sempre patito il caldo. Sì. Quelle temperature lì sono veramente sono terrificanti. Ma io non ho nulla in contrario. Sai cosa mi lascia perplesso, Massimo? Il fatto che questa esperienza non sia mai stata testata, se non nella finale di Supercoppa tedesca, Bayern, Borussia, Dortmund. Insomma, non ci sono stati dei veri test pronti via mondiale. Sì, questo credo che sia parte anche dei bagagli di innovazione che vogliono sfruttare, nel senso che se c'è una possibilità di fare qualcosa che metta in luce, evidentemente viene adottato. Penso che con intelligenza si possano gestire, come ti ho detto prima, li trovo la cosa assolutamente positiva e buona da un punto di vista proprio di preservazione dello sforzo dei calciatori. Poi è chiaro che saremo invasi da pubblicità, ma questo mi sembra una conseguenza in un mondo commerciale. Come scrive un ascoltatore, abbiamo il tempo per andare a prendere la birretta, che non è neanche male. Sulle altre due cose che invece già si sapevano, erano ufficiali, la storia dello spray per la distanza, la barriera, e poi finalmente, qui bisogna dirlo, la possibilità di risolvere con un sistema, ripeto, molto costoso, più costoso di quello già utilizzato in Inghilterra, 14 telecamere, l'arbitro con l'orologio intelligente, se la palla è dentro compare la scritta gol, e quindi casi come ne abbiamo vissuti moltissimi ma anche nei mondiali e negli europei. Sì, ma certamente queste due, vabbè, lo spray mi sembra una cosa. Lo spray serve più al pubblico, credo, ai telespettatori, al pubblico, sì, allo stadio. All'arbitro devo dire tendenzialmente dovrei dirti serve meno, nel senso che un arbitro di personalità, tu sai come la penso, sì, certo, mette la barriera a 9,15 metri e la fa rispettare, certamente. E la fa rispettare senza necessità dello spray. Però tutto sommato può essere una cosa che può anche tornare a vantaggio degli arbitri, perché al momento in cui poi scatteranno le ammonizioni, se si muovono c'è la possibilità, come dire, chiaro, di traguardarli meglio. Chiaro. E quanto al gol non gol, possiamo solo dire era ora, no? L'abbiamo già detto insieme molte volte, possiamo solo dire era ora. Ne abbiamo parlato tantissime volte, meglio tardi che mai, a voler essere di nuovo positivi, perché questo era un tipo di problematica, parliamo di un tipo di problematica che poteva essere risolta già da molto, molto tempo fa. Alberto Reise è un mio amico convocato, no? Che è venuto a trovarmi oggi, è un nostro ascoltatore. Vuoi chiedere qualcosa, Massimo Chiesa? Hai qualche curiosità? No, stavo solo pensando che ci siamo solo io e te che siamo sfavorevoli a questo. No, time out. Ma no, io non sono sfavorevole in linea di principio, sono perplesso per il fatto che non sia stata sperimentata prima questa soluzione e che 3 giorni prima dell'inizio del mondiale venga gestita in questo modo. Un'ora e mezza prima della partita la FIFA, a suo insindacabile giudizio, dice ok, qui facciamo i time out, là non li facciamo. Mi lascia un po' perplesso l'intera gestione di questa cosa. Su questo caso, permettimi, sono d'accordo, nel senso che il discorso della discrezionalità è chi decide come, quando. Non è normata, insomma. No, ecco, diciamo che non è codificata come avrebbe dovuto essere. Io torno a ripetere, sono positivo per quello che riguarda la sostanza. Sì, non quello anch'io. Per quello che concerne la forma, evidentemente le cose testate funzionano sicuramente molto meglio, però sai, anche in Italia noi abbiamo avuto cambiamenti in corsa, mi ricordo la storia di Nakata o Nakata, che dir si voglia. Sì. Massimo, un'ultima cosa invece riguarda proprio il campo, come vedi questa nazionale? Immobile o Balotelli, i 5 centrocampisti, la possibilità di cambiare in corsa, ti iscrivi al partito degli ottimisti come me e che io ho fondato, oppure no? Io sì, mi metto in coda, mi iscrivo al partito degli ottimisti. Il doppio regista non mi dispiace per niente, anche se c'è la possibilità di sfruttare un grandissimo talento che è quello di Verratti, far respirare un momento più Pirlo, non è necessariamente importante al 100% che tutte le ripartenze e tutti i palloni vengono giocati da Pirlo. L'avere la possibilità di due chiamiamoli registi, di due cervelli di centrocampo, secondo me aumenta il ventaglio delle opzioni che si ha in fase offensiva. Per quello che riguarda Immobile, è in un periodo stratosferico, sarebbe un delitto tenerlo fuori. Poi tenerlo dentro con Balotelli o tenerlo dentro da solo è un altro tipo di discorso. Lui è un centravanti estremamente mobile, però lo è anche Balotelli, per cui se il concetto è la punta centrale, non ce l'abbiamo in questo momento. Certo. Sia se parliamo di Balotelli, sia se parliamo di Immobile, però sì, lo terrei dentro. Ma insieme, quindi, dovendo sceglierne uno dei due in questo momento, Immobile? Sì, assolutamente sì. Perché ha il favore delle stelle, perché vede la porta larga un chilometro, perché ogni volta che la tocca la butta dentro. Perché, esatto, perché è il suo momento, perché ha l'entusiasmo di chi è arrivato a coronare il sogno di una vita, perché non è per niente snob, perché si sta sacrificando dando un esempio incredibile, e come del resto il suo collega Granata. Io prescinderei da Darmian come la terza. Infatti ho la netta impressione che Darmian andrà a occupare quella fascia sinistra, anche perché Abate mi è sembrato uno dei più indietro come condizione, per usare una frase fatta. Massimo, ti ringrazio, sentiamo presto. Ringrazio te. Grazie mille Massimo. Ciao. Grazie mille Massimo Chiesa. Saluti. Ci hanno chiariti un po' le idee, no? Su queste innovazioni che vedremo ai mondiali. Sì. Quindi la linea per terra sarà più altro per il pubblico, per la televisione. Ma non credo solo per il pubblico, anche per poter controllare meglio dei giocatori. Non ti ho chiesto per che squadra fai il tifo, Alberto? Sono per l'Italia, in questo periodo per l'Italia. Ho capito, fuori da questo periodo. E fuori da questo periodo, si può dire, bianco-nero. Bianco-nero, attenzione. Sentito che Mancini, notizie di oggi, via dal Galatasaray, bianco-nero. Aveva ancora 2 anni di contratto, però a differenza di Seedorf, in questo caso hanno... Diciamo che il divorzio è stato consensuale, non sono andati in tribunale a litigare con gli avvocati. Mentre Clares, datemi tutti i miei soldi, perché sennò io sto qua. Voi mi volete mandare via, me li date tutti. È uno tosto. Tutti maledetti e tutti e 10 milioni. Stefano Siena, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo solo dire che prendendo spunto da lei volevo fondare un altro partito ancora. Eh beh, certo, cioè, in questo paese... Esattamente, quello degli assolutamente ottimisti. Esageriamo, adesso io mi fa sentire, mi mette già verso il centro, lei si prende le frange estreme. Perché ricordiamo tutti quello che è successo nel 2006, no? Nessuno si aspettava una nostra vittoria, invece siamo arrivati lì e abbiamo vinto, no? Certo. Beh, non solo nel 2006. Io sabato sera sarò lì. Il 94 con una bella siamo andati in finale. Una bottiglia di vino nobile e brinderò alla vittoria sull'Inghilterra. Adesso, sono sicuro. Adesso cominciamo. Adesso vedo vari gesti scaramantici di qua e di là. Diciamo. Comunque, che... forza Torino. Forza? Forza Torino sempre. Forza Torino sempre. Forza Torino sempre. Bene, bene, non Alberto, c'è problema. Non c'è problema. Assolutamente, anzi, credo che il Torino si sia ampiamente meritato di andare in Europa League. Europa League, poi come ci è andato è un'altra però, storia. Secondo me sul campo lo ha meritato, sì. Sì, non che il Parma non lo meritasse. Per carità, per carità. Diciamo che sono state due... Il Torino non ha rubato niente, come si dice, insomma. No, ma assolutamente, sono state le due migliori rappresentanti della buona borghesia del calcio italiano in questo campionato. Tutti convocati. Abbiamo fatto un anno fantastico insieme a Pescara, abbiamo fatto grandi cose, non si può dire, anche se per 2 anni non abbiamo giocando insieme, però ci trovavamo sempre in Under 21, il gioco era sempre anche con Verratti, penso che non si dimentica tutto quello che abbiamo fatto in un anno a Pescara, anche se non, ti ripeto, non abbiamo giocato insieme nel club, però quando lo ritrovi basta solo con lo sguardo e riesce i movimenti vengono automaticamente. Così Insigne ieri in conferenza stampa, ricordo che l'Italia sta giocando questo scrimmage, questa partitella di allenamento, e Insigne e Immobile davanti con quella che potrebbe essere, beh, certamente la difesa titolare, Darmian, Chiellini, Barzagli, De Sciglio, De Rossi, Pirlo, Candreva, Verratti a centrocampo, appunto Insigne e Immobile davanti. Poi si tratta di capire se c'è quella storia per cui vuoi far giocare i due attaccanti titolari, Balotelli e Cassano, ad esempio, giocano contro la difesa titolare. Questa potrebbe essere un'altra chiave di lettura, però ce n'è una terza. Allora, Prandelli ha deciso di rinunciare al centrocampo a 5, alle incursioni di Marchisio, eccetera. Ha deciso di cambiare modulo. al di là degli interpreti, sono, questo è un modulo diverso, quindi con le due punte da una parte e dall'altra. Questa potrebbe essere la vera domanda. Oppure vuole anche solo mettere un po' di pressione a Balotelli, potrebbe anche essere questo. Mettere un po' di pressione. E ci sta, ci sta. Sì, considerato Balotelli, insomma, io tenterei. Perché di... è la prima volta che Balotelli ha un rivale vero, è la prima volta. Sì, comunque, guarda, io ti dico, nel manifesto del mio partito dell'ottimismo c'è il fatto che a me piace molto questa idea. Comunque di intervenire a lavoro in corso, cioè tu entri con un centrocampo tecnico, cioè a tenere la palla, no, eviti, in Brasile sarà molto pericoloso prima portare, non prenderle. Sì, certo, ma prima non prenderla, poi portare palla per correre palla al piede ti ammazza, no? Sì. Quindi giochi con un centrocampo fitto da equilibrio alla squadra. Hai degli eccellenti palleggiatori, quindi la palla la tieni tu e la palla non suda, come dicevano i maestri. E poi insomma, hai gli inserimenti di Marchisio, hai Balotelli che giocando in questo modo con gli inserimenti del centrocampista, hai visto quel con Lussemburgo, no? Con quella palla fa quello che vuole, quel cross d'esterno sull'inserimento di Marchisio, vabbè, poi mi dite che però io Marchisio lo metterei, a me senza Marchisio. Esatto, io Marchisio lo metterei. Quindi e poi a partita in corso, magari con gli avversari stanchi, quando la partita si rompe, quando le squadre magari si allungano, allora vai dentro con quelli che ti possono far male, Cassano. Immobile, Insigne, anche Insigne. Fabio, provincia di Salerno. Sì, non c'era inferiore. Non c'era inferiore. Ciao. Io volevo intervenire riguardo al... sono d'accordo con te sul fatto che la FIFA sceglie in maniera arbitraria di inserire i time-out così all'improvviso, un giorno prima dell'inizio dei mondiali. Avendo però un trascorso come, sia come calciatore che come arbitro di calcio a 5, io mi chiedo, non sarebbe più bello per lo spettacolo anche i cambi diciamo volanti o comunque che un calciatore uscito potesse anche rientrare? No Fabio, io sono abbastanza conservatore sullo spirito del gioco, quindi quello snaturerebbe davvero moltissimo il calcio come lo conosciamo, cioè sarebbe una rivoluzione totale, possiamo ben immaginare il motivo per cui questo avverrebbe, quindi sono abbastanza contrario a questo. Quanto ai time out, è vero, può sembrare una cosa da nulla, ci si ferma 3 minuti in modo che i giocatori possano bere eccetera eccetera, però è un cambiamento che non lo so, proprio perché non può incidere una partita. Può incidere una partita certamente, ma soprattutto lo scopriremo vivendo ai mondiali, perché non abbiamo delle... Non lo so se può incidere sulla partita oppure no il fatto per un giocatore di sapere, ok, tra un minuto l'arbitro fischia, mi fermo. Nella pallacanestro il time out è anche tattico, no? Adesso do tutto in questo scatto, magari. Esatto, sono tanti aspetti. Ci sono tanti aspetti sottili, però quando si gioca al massimo livello possibile. Non è da testare ai mondiali, ecco. Non è da testare così. Però lo avevano accennato, mi sembra, e non è proprio un fulmine a ciel sereno. Mi sembra ne avessero parlato. Questo è chiaro, però le sperimentazioni le fa prima. Mentre è vero che sono abbastanza conservatore quanto alle regole del gioco, però. Sono anni che dico che la tecnologia per il gol non gol e solo per il gol non gol mi sembra sacrosanta, anzi siamo nettamente in ritardo sulla applicazione. 2014 è ora di capire se la questione geometrica ti dice che la palla è dentro o fuori, non è questione di discrezionalità, lì è questione di spazio. Quindi mi sembra fondamentale questo aspetto. Massimo Chieti, buongiorno. Buongiorno, ascolti, io volevo dire due cose. La prima velocissima, secondo me Insigne e Immobile devono giocare insieme assolutamente. E la seconda, io non capisco per quale ragione venga attribuito un valore così alto a Perin, che l'ho visto giocare parecchio e non riesco a capirne le qualità. Beh, secondo lei non è un buon portiere? No, assolutamente. Bah, ce ne sono di più affidabili, direi, Massimo. Quanto al talento, secondo me Perin è molto bravo, è un portiere di grande talento, è un portiere certo piuttosto ondivago, gli concediamo, non lo conosco poco sinceramente, non l'ho visto. No, nel Genoa quest'anno ha giocato un'eccellente stagione, sai, è quel portiere che vedi che ha talento, ti fanno delle partite da 9 in pagella, poi magari ti pigliano un gol come quell'altro, è ancora discontinuo. Scuffe, pur essendo molto giovane, sembra uno un po' più continuo. È chiaro che Perin, poveretto, l'altra sera gioca titolare in quella, nell'amichevole con la Fluminense, ne fa una che, mamma mia, che ti fa svegliare di notte, no? Dico, la maglia della nazionale, con tutta l'attesa che c'è, ti fa passare quel pallone abbastanza disastroso. Ti fa ricordare Marchetti, diciamo. Sì. però, insomma, è un giocatore di eccellente talento. Poi margini di crescita notevoli. Adesso però sono un po' più preoccupato per come sta Sirigu. Sai che aveva qualche problema fisico, dovrebbe aver recuperato, però insomma stiamo a vedere cosa succede. Ti volevo dare qualche altra notizia di oggi, caro Alberto. Sai che a proposito della Juventus, lui fa il tifo, guarda un po' questa agenzia, cosa c'è scritto? C'è scritto che Andrea Pirlo e la Juventus insieme per altri 2 anni. Il centrocampista bianconero e della nazionale ha rinnovato il contratto con i campioni d'Italia fino al 30 giugno 2016. Ad annunciarlo è il sito internet del club. Hai visto? Sono molto contento, si sapeva già. Sono molto contento. Secondo me Pirlo ha ancora molte cartucce da giocare. Altri due anni sono tanti. Certo. Altri 2 anni vuol dire. Deve imparare anche lui a essere sostituito. Insomma, dovrà imparare. No, perché ci sono giocatori che. Cioè, secondo me, ecco, Pirlo come giocatore tattico io non lo vedo. Cioè, è uno che consegna le chiavi della squadra, ma non può giocare. No, e non puoi giocare in altro modo. Da questo punto di vista è anche molto condizionante come giocatore. Carlo Roma, buongiorno. Buongiorno. Allora, una cosa rapida per Pardo, per modestamente aiutarlo nelle pronunce, perché l'ho sentito nelle varie telecronache passate fare qualche piccolo errore di pronuncia. Non esiste la S di sh in brasiliano, Dani Alves, non Dani Alves. E nemmeno Costa, è Costa, punto, quello è portoghese. Invece in Brasile la S è una S. Le D vicino alle I si pronunciano G, quindi è Gida, non è Dida. E quindi quando si trova di fronte a qualche giocatore brasiliano con questa particolarità, le L finali sono sempre I, è Brasil, non è Brasil. Brasil, certo. No, io mi ricordo, di quando ero ragazzino, c'è stato una diatriba non da poco su Falcao. Falcao, Falcon, Fosson. Si ricorda? Mi permetto di spiegarle, perché ci ho vissuto un paio d'anni fa, sono andato ad adottare 2 ragazzi giù in Brasile, quindi loro mi hanno fatto scuola di brasiliano praticamente. Sì. Falcao, ovviamente essendoci una L, diventa una U. Poi c'è quella Aoku, quella. Quindi si dice? Si dice, e la AO diventa praticamente un suono nasale simile all'ON francese, quindi è Falcon. Falcon. È una cosa. Mi si intorcigna la lingua. Solo mica male, eh? Grazie Carlo, comunque gireremo senz'altro a Pardo i suoi suggerimenti. Allora, sentiamo migliore in campo di oggi, poi andrò la maglietta di tutti i convocati e poi ve ne dico, chiudendo un'altra, sul mio idolo Gulbis. Ugo dalla provincia di Brescia, il nostro ascoltatore, già iscritto anche lui al partito degli ottimisti, giusto Ugo? Sì, buongiorno a voi e buongiorno a chi ascolta. Ne manderemo a casa la tessera, la manderemo anche a vari altri ascoltatori. È cosa odierna. Fino a ieri avevo un'altra tessera, avevo la tessera dei pessimisti, devo essere sincero. Poi mi sono seduto avanti alla TV e ho guardato la partita Italia-Brasile trasmessa su un canale nazionale dell'82 e mi sono reso conto che quei cavalli borsi dell'82 si erano trasformati tutti in campioni. Io sono convinto che i ragazzi che sono in Brasile, presi individualmente, sanno giocare a pallone. Non terra in diretto che sanno di dire mancata Gigi Albalù, fa questa seduta fa. Prandelli penso abbia detto in italiano, anche se è di Brescia, ma comunque traduzione è quella. No, tranquilli, perché Gulbis si è giocato al casinò in una notte, non tutti, ha tenuto a precisare, i 412.000 che aveva guadagnato in Francia Roland Garros, ma una buona parte, idolo totale. Alberto Raise, nostro ascoltatore per un giorno, grazie di averci venuto a trovare. È stato molto bello, molto piacevole. Franco Piantini, autore di questo programma, Claudio Scattone in regia, Roberto Scaltritti in regia, pure lui in redazione. Ciao, ci sentiamo domani dopo il GR delle 2. Ciao.